potuto scordarmi di te. Se mi avessi guardata come fai solo adesso, se tu avessi pensato un po' meno a te stesso, mi sarebbe bastato. E ti giuro che mai tu mi avresti trovata abbracciata con lui. Chiedilo al tuo cuore e non chiederò a me come ho potuto scordarmi di te. Chiedilo a te stesso e non chiederò a me. Io non potrei mai spiegarti perché. Se mi avessi lasciata forse un po' meno sola, proprio quando cercavo da te una parola, non avrei mai guardato in fondo agli occhi suoi per cercare il sorriso che mancava nei tuoi.